Abajo, mon amour. Vedi, dove siamo a me sembra lontano. Guarda, se siamo a nord o a sud di Milano. Lasciami sperare che non ci siamo persi. Lasciami capire se abbiamo preso sentieri diversi. Meglio lasciare qui tutto, i nostri pesi, tutti i nostri bagagli. Abbiamo da traversare molti chilometri, un mare di migli. È vero che ogni sera mi porterai a ballare con la tua macchinina in quelle vecchie belle balere, a farmi innamorare di ogni goccia, di ogni raggio di sole, a farmi riscoprire l'amore, l'amore, l'amore. Senti, non lasciarmi qui solo tra i venti. Anche, se sono stanco, resterò al tuo fianco, incollato come un francobollo, come una penna che scrive in un foglio, soffusa come una vecchia abat-jour. Ti inonderò di luce, mon amour, sarò per te compagnia, meravigliosa malinconia, una finestra che dà sul giardino, un altro pezzo del nostro destino. È vero che ogni sera mi porterai a ballare con la tua macchinina in quelle belle vecchie balere, a farmi innamorare di ogni goccia, di ogni raggio di sole, a farmi riscoprire l'amore, l'amore, l'amore. Devo, bevo, bevo, bevo, bevo, bevo, bevo. È vero che ogni sera mi porterai a ballare con la tua macchinina in quelle vecchie belle balere, a farmi innamorare di ogni goccia, di ogni raggio di sole, a farmi riscoprire l'amore, l'amore, l'amore, hey, oh. I'm a little bit.